Allora, realtà non so bene come partire perché questo talk non è che io l'abbia preparato un granché, però ci tenevo a presentarlo perché, diciamo, è il progetto a cui mi sono dedicato negli ultimi mesi e mi sembra una cosa sensata da condividere. È un progetto che ha funzionato, sta funzionando molto bene, mi piacerebbe che qualcun altro lo adottasse e nel caso mi aiutasse, e vi parlo di Gancho. Allora, Gancho fondamentalmente è un'agenda collettiva di eventi che è nata da una forte necessità locale. Io sono dell'ACLAB di Torino, l'Underscore, e diciamo che a Torino in questi ultimi mesi sono successi parecchi eventi, insomma, è stato un periodo parecchio denso per quanto riguarda la repressione, fondamentalmente. E da più parti ci è stata fatta questa richiesta di creazione di un'agenda di movimento condivisa. Quindi questo strumento nasce da una necessità delle persone, degli spazi che noi attraversiamo. Noi ovviamente abbiamo fisicamente, l'ACLAB sta in un posto che è al Gabrio, che è un centro sociale occupato, però abbiamo anche una trasmissione su Radio Blackout e insomma ci piace comunque intessere relazioni e reti anche con le altre realtà a noi affini e insomma cerchiamo di fondamentalmente creare rete e fare la rivoluzione, no? Quindi, insomma, ci era piaciuta questa idea anche perché avevamo già in programma la creazione di un server radicale. Un server radicale è, detto in breve, un qualcosa tipo autistici.org, tipo RiseUp, tipo bida.im. Sono i server che fondamentalmente hanno come scopo non il profitto, detto in soldoni. E ecco, a noi appunto abbiamo pensato che fosse utile la creazione di un nodo locale, quindi questo è un po' stato il fulcro di tutto, e in particolare spinti anche dall'esperienza di bida.im di provare Mastodon, che è un social network federato. Una piattaforma di microblogging fondamentalmente, che era uno degli altri servizi che volevamo sperimentare all'interno di questo contenitore, che è appunto il server nostro, che si chiama cisti.org. Siccome appunto l'idea fondamentale partiva dall'utilizzo della comunità a noi affine radicata nel territorio, anche i nomi che abbiamo utilizzato, che magari per molti di voi non hanno nessun tipo di significato, sono fortemente connotati rispetto alla realtà torinese. Quindi, cosa vuol dire Cisti? Cosa vuol dire Gancho? Cisti è, che è il nome del server, cisti.org, è un modo che si utilizza a Torino per dire attenzione, per dire fai occhio, okay? E si utilizza solitamente per dire Cisti ci sono gli sbirri, no? Cisti nascondi quello, cisti fai cisti, no? Per indicare che c'è una situazione sensibile in arrivo. E addirittura su Radio Blackout c'è proprio un servizio che si chiama Cisti Viaggiare Informati, che un po' riprende il CIS Viaggiare Informati, che è il servizio radiofonico del traffico. Però il servizio Cisti Viaggiare Informati di Radio Blackout, che è un servizio che tutte le trasmissioni utilizzano, semplicemente rimanda agli ascoltatori i messaggi di Cisti che arrivano sul telefono della radio e sono dello stampo: Cisti, c'è un posto di blocco in Corso Marconi, Cisti, ci sono i controllori sul 4. Okay? Quindi questo è anche uno dei motivi per cui Radio Blackout è ascoltata parecchio, perché appunto muovendosi nella città è un buon modo per capire dove sono i punti di privazione della libertà di movimento, fondamentalmente. E quindi, appunto, per questo ci sembrava un'ottima idea chiamare il server cisti.org, perché appunto per questo richiamo e che insomma fosse immediatamente chiaro il riconoscimento verso quella comunità locale lì. All'interno di Cisti abbiamo creato tre servizi inizialmente, poi adesso sono in arrivo probabilmente almeno altri due, ma sono ancora proprio in fase di ragionamento. Oggi vi parlerò di uno di questi servizi in particolare. Gli altri due, appunto, come vi dicevo, sono Mastodon, di cui tra l'altro dopo ci sarà un seminario, e poi c'è un PAD. Un PAD è fondamentalmente un sistema per scrivere documenti in maniera condivisa, che anche questo era uno strumento che c'era stato richiesto parecchio dalle comunità che attraversiamo e fondamentalmente serve per evitare di mandarsi mail su mail nelle mailing list con comunicati, documenti, no? È una maniera molto facile per scrivere documenti live in tante persone. Molto probabilmente qualcuno di voi avrà utilizzato già un PAD, uno dei PAD più famosi e sta su RiseUp. Andate su pad.riseup.net. E anonimamente, tra l'altro senza essere registrati, potete creare dei documenti condivisi con i vostri compari. Gancho invece, appunto, è nato in un periodo a Torino molto, come vi dicevo, molto denso, successivamente allo sgombero dell'asilo. È stato un evento molto particolare per la città perché, non so se qualcuno, diciamo, ha idea di cosa siano i movimenti a Torino, però solitamente sono molto conflittuali tra di loro. Invece, l'innalzamento del livello di repressione ha fatto sì che, come succede solitamente, di creare una sorta di nemico comune contro cui allearsi. Quindi, è stata un'ottima occasione per aggregare pezzi di movimento che magari non si vedevano manco ai cortei. E quindi, tra l'altro, è stata anche come dire, una cosa particolare per la questura stessa, che si è vista dopo lo sgombero dell'asilo, che comunque era una realtà molto particolare, si è vista invece scendere in piazza, si è vista anche una solidarietà estesa da realtà che poco c'entravano effettivamente col giro anarco-insurrezionalista, come viene descritto dalla stampa. Quindi, cioè, anche gli universitari, insomma, si è creato in un momento particolare una situazione dove tante persone volevano effettivamente fare qualcosa perché la situazione era veramente esagerata, come lo è tuttora, tra l'altro. E quindi, appunto, c'era l'idea di far confluire all'interno di uno spazio condiviso e comune gli eventi messi in atto durante questo periodo. E quindi abbiamo scritto veramente in pochissimo tempo, in 2 settimane, abbiamo scritto questa piattaforma che abbiamo chiamato Gancho, perché a Torino Gancho si utilizza appunto per darsi un gancho, significa ci vediamo lì, darsi un appuntamento, ci diamo un gancho in radio, ci diamo un gancho in piazzetta, oppure dov'è il gancio per il corteo? Si usa con questa connotazione qui. E quindi, sempre per il ragionamento di cui sopra, gancio ci è sembrata la parola adatta per connotare questo strumento. Siccome appunto è stato scritto molto velocemente, all'inizio non era stato pensato per essere esportato ad altre realtà. Ed è il motivo per cui, come dire, tutte le richieste che poi ci sono arrivate da varie città d'Italia sono un po' state evase velocemente perché non era praticabile dare in mano questo strumento scritto veramente coi piedi ad altre persone. E anche un po' contrariamente alle nostre aspettative, Gancho è stato veramente tanto utilizzato. Anche proprio senza essere presentato, quindi col passaparola un po' si è sparsa la voce dell'esistenza di questo strumento, anche perché comunque noi abbiamo una trasmissione in radio, insomma, comunque abbiamo i nostri canali comunicativi, però non è che abbiamo fatto grosse presentazioni e abbiamo proprio visto che c'era la necessità, almeno nella realtà torinese in quel contesto di uno strumento del genere. E quindi in pochissimo tempo davvero le persone hanno iniziato a utilizzarlo sia per pubblicare eventi e sia per trovare le cose da fare. Un'altra delle necessità che un po', a cui un po' risponde Gancio è il fatto che in quel momento, in questo momento, siccome appunto c'è questa voglia di solidarietà, comunque di capire che siamo comunque della stessa famiglia, c'era anche la voglia di non accavallare gli eventi, che è un tipo di ragionamento che, come dire, non è normale sempre e per forza, okay? Perché veramente ci sono realtà molto diverse che, come dire, fanno spallucce se c'è un concerto punk lì e lo faccio anch'io stasera, chi se ne frega, no? Invece c'è stato un momento in cui c'era anche questa necessità, cioè di non accavallare eventi a eventi già esistenti di altre realtà, magari con tematiche simili, e quindi appunto Gancio risolve anche, tra virgolette, questa problematica qui. Adesso ve lo faccio vedere per come ora. Si vede niente, vero? Non si vede niente, però è così, si intuisce. In realtà non si vede proprio nulla. Forse ve lo faccio vedere dal computer. Provo dal computer. Allora, fondamentalmente qui c'è un piccolo calendarietto con dei pallini dove ci sono degli eventi e quando ci sono dei multi-eventi, cioè degli eventi multigiorno, quindi tipo dei festival o tipo hack meeting, ci sono queste barrette qui. Quindi non è niente di così incredibilmente strano. Siamo a circa, boh, non so, eventi, però sui 400 eventi, siamo tipo, non so, sarà da 3 mesi che c'è questa piattaforma, e quindi insomma ha funzionato secondo me parecchio. E tra l'altro sono eventi di tutte le realtà con cui noi ci interfacciamo e non solo, cioè fondamentalmente di tutte le realtà di movimento a Torino. Tra l'altro, vabbè, ci sono anche eventi al di fuori del contesto torinese. Su questo la policy ancora non è molto chiara. Per ora, quando qualche torinese va a quell'evento, allora è anche su Gancio, tipo hack meeting è su Gancio. Non l'abbiamo messo, cioè io non l'ho messo, Samma non l'ha messo, quindi non so, qualcuno l'ha messo, però questo è. Dalla creazione di questo strumento sono nate delle necessità, cioè subito dopo ci sono arrivate delle richieste, in primis da altre città che volevano anche loro questo attrezzo, anche da Firenze mi stanno pressando per fare una release degna di essere condivisa, cosa che succederà questo mese, spero. Volevo farlo per Hack Meeting, anche la release nuova, oggi ve la faccio vedere però. Non me la sento ancora di fare aggiornamento, sono un po' stanco. Però appunto vi volevo raccontare e anche soprattutto raccogliere idee e suggerimenti rispetto all'utilizzo di una piattaforma di questo tipo. Adesso vi racconto un po' di peculiarità che mi ero un po' immaginato rispetto a che cosa vuol dire avere un'agenda condivisa di eventi. Allora, un po' i ragionamenti che io mi ero fatto, sono tantissimi, però in particolare c'è la possibilità di inserire degli eventi anonimamente, quindi non c'è necessariamente il bisogno di essere registrati. In questo caso, ovviamente, l'evento non è subito pubblico, arriva una notifica a chi si è accollato appunto di fare la moderazione, che a quel punto può decidere se l'evento è pubblicabile o no. È sempre successo, tranne in un caso, credo che gli eventi fossero all'interno della nostra policy che ci siamo dati e che è anche esplicitata sul sito rispetto a quali sono gli eventi che è possibile pubblicare all'interno della nostra istanza di Gancio, che sono un po' le policy che ci siamo dati un po' in generale per il server cisti.org, che sono l'antisessismo, l'antifascismo, l'antirazzismo e l'anticapitalismo. Ah, sì. E quindi solo una volta c'è stato un evento di Potere al Popolo che avevano organizzato davanti al Salone del Libro quando c'è stato il casino dell'editore Altaforte, volevano fare un picchetto, una contestazione lì davanti e avevano pubblicato l'evento su Gancio e non gliel'abbiamo accettato perché era fuori dalla policy ospitare degli eventi che insomma, promuovevano dei partiti politici. Ovviamente se avete delle domande fermatemi. Quindi vabbè, sostanzialmente è una grande griglia dove ci sono gli eventi, c'è un titolo, una descrizione e la locandina dell'evento. Tipo questa è la Cemona che c'è domani, c'è stasera a Roma. Qui sotto c'è la descrizione, il titolo, quando comincia e dov'è, e dei tag di riferimento. Per inserire un nuovo evento, fondamentalmente l'interfaccia è stata pensata per essere molto semplice, quindi si specifica il luogo dell'evento che è autocompletato, nel senso che se una volta io faccio un evento al Next Emerson e scrivo l'indirizzo, la volta successiva non devo più rifarlo, poi inserisco un quando, avendo la possibilità di appunto decidere se è un evento di più giorni, eccetera. C'è anche la possibilità di inserire un orario di fine. E poi, vabbè, non vi racconto i dettagli, inserire un titolo, una descrizione dei tag e la locandina. Poi, vabbè, c'è una parte amministrativa. La locandina mi chiedeva se deve avere delle dimensioni specifiche. No, non deve avere delle dimensioni specifiche. Ovviamente ci sono delle locandine che vengono visualizzate meglio o peggio, però comunque non c'è nessun tipo di problema, ma anche perché le locandine sono sempre molto diverse, ci sono quelle orizzontali, ci sono tipo i flyer, ci sono insomma così. Poi c'è un pannello di amministrazione in cui si vedono gli utenti iscritti. Noi abbiamo cercato nell'interfaccia, abbiamo molto spinto sul lato comunicativo, quindi ad ogni passaggio c'è una parte in cui spieghiamo molto bene di cosa si tratta, cos'è quello che vedi, cosa stai facendo. E quindi, ad esempio, nella registrazione c'è un pippone con scritto che comunque dietro questo servizio ci sono delle persone in carne e ossa, di descrivere veramente perché, per come. Si vuole veramente pubblicare degli eventi, insomma, non è che accettiamo chiunque, e ci sono parecchi iscritti ad ora che pubblicano eventi. Noi all'inizio ci eravamo fatti un ragionamento pensando che appunto ci sarebbe stata la necessità di spingerlo questo strumento, perché ovviamente uno dei ragionamenti per cui che ci ha fatto capire la bontà di cosa potrebbe come cioè, del perché aveva senso fare una cosa del genere, era un po' togliere questo utilizzo da Facebook fondamentalmente, no? Perché la questione degli eventi su Facebook è una delle cose che più fa presa, anche all'interno di ambiti di movimento, nonostante in realtà, ad esempio a Torino, proprio per lo sgombero dell'asilo, uno degli account di Macerie su Facebook è stato chiuso. E quindi uno dei nostri pensieri all'inizio era: dobbiamo creare dei tool per importare gli eventi di Facebook all'interno della piattaforma, perché all'inizio ovviamente era vuota. E quindi eventuali utilizzatori, anche motivati, avrebbero detto: vabbè, non c'è niente, è inutile. E quindi abbiamo detto: cerchiamo di riempirlo, come facciamo anche nel futuro. Cerchiamo di importare noi automaticamente gli eventi da Facebook. Ovviamente questo ha generato grandi ragionamenti, dibattiti, mail e fondamentalmente abbiamo deciso che no, cioè che importare gli eventi da Facebook avrebbe in qualche modo avallato un comportamento che non sentivamo nostro, no? Perché era un po' come dire, sì, tu basta che Cioè, io non me la sentivo di dire basta che metti il tuo evento su Facebook e compare direttamente su Gancho. Quindi la nostra prospettiva è diventata dal cercare di aiutare il visualizzatore di eventi, cioè chi aveva la necessità di vedere gli eventi, al chi aveva invece la voglia di pubblicarli. Ok, quindi il nostro focus è stato quello. E quindi in realtà, anche se io avevo scritto uno script all'inizio di import di eventi Facebook, ho deciso di usarlo una volta sola. Cioè, ho detto all'inizio prendo gli account dei collettivi, dei gruppi, dei posti occupati di Torino e all'inizio faccio un import degli eventi pubblicati su Facebook di quei posti lì, però lo faccio una volta. Se poi funziona, buono. Se non funziona, ci abbiamo provato lo stesso. Invece è andata abbastanza bene. E quindi, appunto, quando uno si registra, anche in quel caso ci arriva una notifica con scritto, poi è bello perché ti scrivono le persone che poi tu vedi, no? E quello, cioè, che tu incontri, cioè, ti chiamano al telefono, cioè, è un tipo di relazione molto diverso allo strumento rispetto a quello che io mi posso immaginare essere, magari mettere a disposizione un altro tipo di servizio, perché appunto essendo radicato sul territorio sono persone che poi incontri veramente per strada. E quindi poi nelle descrizioni delle registrazioni, che sono obbligatorie, cioè ci viene fuori, ciao, tipo ci siamo visti prima, sono Giuliana. E mi hai parlato di gancio, figo, voglio provarlo, oppure insomma, questo è un evento, cioè è proprio un altro tipo di relazione. E questo è quanto più o meno. Adesso vi dico un po' le necessità che mi sono arrivate nell'ultimo periodo e quali sono le funzionalità della nuova release che ci sarà da qui a breve. Sì, noi abbiamo un po' di amministratori che si occupano di questa cosa. Mi sembra siano sui 6 o 7 siamo che facciamo questa cosa, ma non è un problema, nel senso che comunque ci saranno una cinquantina di utenti che pubblicano eventi, che sono già tanti, e comunque non c'è un grande lavoro dietro di approvazione di nuove utenze o di nuovi eventi. E quindi niente, adesso vi volevo descrivere un po' i ragionamenti, sia che ci sono arrivati le richieste, i suggerimenti, e sia un po' anche i ragionamenti che mi sono fatto vedendo l'utilizzo che poi viene fatto di questo strumento qui. Noi nel tempo, siccome nello stesso momento abbiamo anche pubblicato un nodo Mastodon, che appunto vi raccontavo è un social network federato. Che è fondamentalmente appunto una piattaforma di microblogging, volevamo in qualche maniera anche interfacciarci a questo mondo qui della federazione. Quindi, vabbè, questo è un po' un discorso lungo da fare, ne parleremo magari nel dettaglio dopo. Però, anzi, di questa cosa mi dispiace, ma ve ne parlo dopo perché voglio parlarvi di altre cose adesso. Comunque, ecco, una delle cose che ci hanno richiesto tanto, anche rispetto al ragionamento che vi facevo prima del non accavallare gli eventi, è appunto il fatto che pubblicando gli eventi all'inizio non c'era la possibilità di visualizzare gli eventi presenti e già programmati nella stessa giornata in cui si voleva inserire l'evento. Adesso è una delle cose che ho implementato e secondo me è molto comoda perché viene fuori qua sotto. Poi c'è la possibilità, che in realtà è anche nella versione presente, di esportare questi eventi, perché una delle problematiche delle piattaforme del capitalismo è che loro, con i loro dati, ovviamente, siccome sono effettivamente il valore che loro hanno, è molto difficile che le rendano disponibili in altri formati, in altri modi, esportabili, eccetera. Quindi, siccome appunto quello è il loro business model, invece a noi non ce ne frega niente che le persone vengano veramente a visitare il sito, perché non dobbiamo fare delle view o dei click per mostrare le pubblicità. Ovviamente è risultato naturale il tema dell'esportazione degli eventi, ok? E quindi abbiamo fondamentalmente quattro modi per visualizzare gli eventi pubblicati in altri spazi. Uno di questi è la mail, ovvero c'è la possibilità di iscriversi via mail agli eventi pubblicati attraverso dei filtri. Quindi io mi iscrivo con la mia mail e quando viene pubblicato un evento, o anche c'è una notifica nella nuova versione, quindi io posso farmi avvisare via mail la mattina del giorno in cui quell'evento che io ho deciso di seguire ci sarà, e quindi mi arriva una mail. Quindi io, senza ovviamente vedere il sito, ho una notifica, ho diciamo la possibilità di visualizzare quell'evento. Quindi quello è un altro canale comunicativo. Questa è una roba che ovviamente su Facebook tu non la puoi immaginare, perché per loro la questione fondamentale è che tu devi stare là dentro. Un altro modo per esportare gli eventi è l'RSS, che sono i famosi feed. Niente di incredibile, però appunto ci sono dei feed. Non so se sapete, qualcuno non sa cosa sono i feed RSS, benissimo. Non vergognatevi, non è che se alzate la mano è un problema. Siete tutti bravissimi. Comunque, insomma, esporta dei feed RSS. L'altro modo di esportare gli eventi è ICS. Chi è che non sa cos'è ICS? Oh, grazie. Grazie. Allora, ICS è un formato standard di condivisione di eventi. È, diciamo, quel tipo di file che viene utilizzato dalle applicazioni e dai software che si occupano di calendari, di agende e di eventi. Ok? È un'applicazione presente su tutti i nostri dispositivi proprio da quando noi lo compriamo, cioè il calendario, che di solito è collegato automaticamente all'account Google su Android. Che noi quando installiamo Android ci viene chiesto come una delle prime cose la nostra email, che identifica sia il possessore del telefono e sia ti dà la possibilità di collegare tutte le app relative al nostro account. Quindi noi possiamo molto facilmente leggere la posta sul nostro dispositivo e anche guardare gli eventi, che poi ci possiamo anche guardare sul computer in maniera trasparente. È possibile in queste app importare gli eventi da altre fonti remote con appunto questo tipo di file qua, che è ICS, e quindi all'interno delle nostre applicazioni calendario possiamo visualizzare questi eventi qua. L'altro tipo di export, che è l'ultimo, no, ce n'è un altro ancora, di cui vi parlo, è la possibilità di esportare un widget, fondamentalmente, quindi un quadratino con la lista degli eventi, e embeddarlo, inserirlo in un altro sito. Questo perché, ovviamente, io ho il sito del mio centro sociale e sì, magari voglio mettere gli eventi su gancio, però è evidente che li voglio anche pubblicare sulla mia piattaforma, sul mio blog, okay? Sul mio sito. E quindi c'è questa possibilità, cioè di prendere una sorta di codice, che è scritto qui sotto, mi dispiace che non si veda un granché, e fondamentalmente apparirà una lista filtrata rispetto o ai tag, o a chi ha creato quell'evento, o al posto, quindi al luogo di dove si trova l'evento, che poi compare sul sito che embedda fondamentalmente quel cosino lì. C'è un'altra modalità di export, che è Mastodon, che è il social network di cui vi parlavo prima. È possibile agganciare ogni istanza gancio a un'istanza Mastodon. Qui è una pippa che ci siamo fatti parecchio, perché all'inizio volevamo fare gancio che fosse effettivamente un nodo, ma un nodo ActivityPub si chiama il protocollo, diciamo, della federazione, il protocollo che viene utilizzato da Mastodon, da Fanquale per la musica, da PeerTube per i video, che fondamentalmente permette questa federazione tra diverse istanze. E quindi noi all'inizio avevamo pensato di creare appunto Gancho come una di queste entità, dove appunto gli utenti potessero essere effettivamente utenti ActivityPub. E poi invece ho cambiato idea e adesso è possibile invece collegare un'istanza Gancho a un account Mastodon solamente, che nel nostro caso, cioè nel caso di cisti.org, si chiama proprio, è l'utente Gancho di Mastodon. Quindi gli utenti Mastodon, quando dico Mastodon se non lo conoscete, chi non conosce Mastodon? Mastodon, appunto, come vi dicevo, è una piattaforma di microblogging, tagliando proprio con l'accetta, è tipo Twitter, diciamo, però appunto è federabile. Possono scrivere quelli che vengono detti dei tweet, sarebbero dei tweet, e poi ci sono altre mille cose di cui non vi racconto, però fondamentalmente ci sono delle timeline di gente che voi seguite e a cui potete rispondere. Ci sono diversi livelli di condivisione dei tweet, quindi potete decidere di pubblicarli a tutti quanti, solo nella timeline della vostra istanza locale, o solo mandare dei messaggi diretti a utenti specifici. All'interno della nostra istanza di Mastodon esiste appunto questo utente che si chiama Gancho, che ripubblica tutti quanti gli eventi pubblicati su Gancho. Una delle idee che mi sembrava importante, come dire, portare avanti è anche una richiesta che ci è stata fatta, era quella di poter allegare agli eventi delle risorse, una sorta di memoria storica. Quindi avere per ogni evento, a parte la locandina, la descrizione, il quando, eccetera, anche la possibilità di allegare, non so, dei documenti, degli audio, dei commenti anche semplicemente. Ecco, questa cosa qui attualmente nella nuova versione viene fatta direttamente attraverso Mastodon. Ok, quindi io da Mastodon, quando visualizzo un evento che viene pubblicato da quell'utente lì, dall'utente Gancho, rispondendo posso includere delle risorse relative a quell'evento stesso. Anche su Gancho. Sì, sì, esatto. Quando io pubblico scrivo appunto in risposta all'evento pubblicato su Mastodon, poi questo viene preso da Gancho e viene mostrato sull'evento specifico. Quindi io, se voglio vedere domani com'era andato il corteo del 30 marzo e qualcuno si è preoccupato di caricare magari l'intervista in radio rispetto agli eventi successi, le foto, piuttosto che ne so, i documenti, ok? Posso, nella speranza, trovarli lì dentro. Allora, per ogni evento c'è l'evento su Gancho. Questo scatena, e la pubblicazione di un evento, scatena tutti quegli export di cui ho parlato prima, tra cui anche l'export su Gancho, su Mastodon, che appunto appare in forma di tweet. Rispondendo, qualsiasi utente rispondendo a quel tweet lì, semplicemente automaticamente il Gancho lo prende, gli arriva live, perché praticamente, cioè parlano ActivityPub tra di loro, cioè Mastodon e Gancho parlano ActivityPub. Quindi è possibile anche cancellando un tweet, si cancella anche su Gancho. Sì, la domanda è: se io sono su Gancho e voglio appunto aggiungere una risorsa, come faccio? C'è un aggiungi, l'aggiungi, il tasto aggiungi ti porta su Mastodon. Ok, quindi tu in realtà se sei collegato, cioè la cosa bella di Mastodon è che io non è che devo essere per forza dentro Cisti, che è la nostra istanza di Mastodon, ma posso aggiungere una risorsa su quell'evento anche dal server bolognese di mastodonbida.im, c'è un account lì, voglio commentare quell'evento perché sono stato a Torino a quel corteo, oppure perché chissà perché, però posso farlo, no? Questa è un po' la figata della federazione. E poi In realtà ci sono altri amenicoli. Nella versione 2 ho fatto tutto server side perché una delle cose problematiche era che condividendo i link semplicemente non venivano le preview delle immagini, della descrizione. Adesso invece è una cosa che avviene. In realtà non ho molte cose da dire se non che secondo me è una roba utile e. Ecco, adesso veniamo alla parte tecnica, che è un po' la parte più noiosa, però prima della parte tecnica. Allora, lui dice, se io decido come gruppo politico sono molto lungimirante e so cosa faccio nelle prossime 4 settimane, posso metterlo insieme, certo, puoi mettere tutti gli eventi che vuoi. Anzi, una premessa, una delle cose che non vi ho detto, in realtà è come è nato fondamentalmente a Torino. Da 6 mesi c'è un opuscolo di carta che si chiama Carta Canta che pubblica gli eventi però bimestrali, no? Mi è venuto in mente per la questione lungimiranza e perché è una delle problematiche, nel senso che grandissimo. Ecco, questo è Carta Canta, questo tra l'altro è proprio il Carta Canta successivo allo sgombero dell'asilo. Carta Canta vabbè, indica gli indirizzi utili degli spazi sociali e gli eventi che gli spazi si sono preoccupati di mandare a chi si smazza questa cosa qui. Ovviamente, questa, diciamo, è l'idea da cui noi siamo partiti, perché non avendo Facebook e comunque volevamo andare a sbronzarci la sera, non sapendo dove andare, abbiamo detto. Facciamo qualcosa. Carta Canta è molto bello, ma soffre di una problematica che appunto tu toccavi, cioè la lungimiranza. È molto difficile perché siamo dei fricchettoni, cioè, è molto difficile programmare con 2 mesi di anticipo degli eventi, no? E quindi quello che succedeva, tra l'altro, c'è anche un altro problema, che i contesti cambiano. Il Carta Canta precedente a questo aveva tantissimi eventi dell'asilo che ovviamente non ci sono stati perché quel posto non esisteva più, purtroppo, e quindi niente, cioè soffre di un'impossibilità di aggiornamento. Questo non toglie che comunque secondo me, una figata, sia vabbè, perché qui compaiono anche. Delle cose che noi su Gancho non abbiamo, che sono gli eventi ricorrenti settimanali, tipo le assemblee settimanali, o comunque a Torino va molto questa cosa che tipo, appunto anche per questa roba di non sovrapporsi, il lunedì c'è una cena lì, il martedì c'era la cena dell'asilo, infatti è la cena del martedì dell'asilo, e è una cosa che noi ovviamente su Gancho non mettiamo perché non ha così senso, però è una cosa che. E anche nel, come dire, nel sentire comune di tutti quanti, cioè una cosa che si sa. Però, insomma, è anche una figata, secondo me, no? Questa cosa qui di avere gli appuntamenti settimanali. In realtà è un pensiero che ho fatto, però ho detto che non so, secondo me non ha tanto senso. Cioè, poi in realtà adesso il problema vero che abbiamo è che ci sono troppe cose, nel senso che proprio è anche difficile visualizzare, trovare una maniera utile per visualizzare, soprattutto nel calendarietto. Ci sono giorni in cui, siccome io metto un pallino per ogni evento in quel giorno, se sono eventi singoli, diventa molto lungo. E quindi cioè, sembra tipo che succede l'apocalisse ogni giorno, non so. Quindi abbiamo deciso, cioè, non so. Poi è una cosa che allora lui dice, sugli eventi ricorrenti sarebbe bello poterli sottoscrivere individualmente perché magari a me interessa una cosa o l'altra. Considerate che, contrariamente a quello che diciamo, succede nei servizi normali, gli utenti di Gancho non sono registrati, quindi tutti vedono la stessa cosa, non c'è una possibilità di dire questo. Però su Mastodon non è così, è vero, è un altro caso d'uso, non so, è un ragionamento ancora in divenire. Rispetto alla cosa degli eventi ricorrenti, una delle cose che un po' mi ero pensato era appunto la possibilità, siccome, vabbè, una cosa di cui non vi ho parlato sono ovviamente i filtri, c'è un search, c'è la possibilità di cercare ovviamente, e per adesso si può cercare per ovviamente tag e per posto, oppure c'è un altro check, dove si può appunto dire fammi vedere anche gli eventi passati, perché di default, a meno che voi non andiate indietro nel calendario, non vengono visualizzati quelli passati, e di farmi vedere solo i miei eventi, quindi quelli che ho pubblicato io nel caso. E questi filtri sono anche quelli che poi uno può utilizzare negli export di cui sopra, quindi l'export via mail, cioè ti arriva notifica via mail, via RSS, via ICS e sul widget che poi tu pu ti puoi embeddare all'interno del tuo sito. Due domande. Allora, lui chiede se oltre ai tag ci sono anche delle categorie di eventi. Allora, non ci sono, però, come per i posti, quando tu inserisci un tag, diciamo che ti vengono autosuggeriti in base a quanto sono stati utilizzati in precedenza. Quindi tu tenderai, spero, adesso è più o meno così, ad utilizzare se un concerto è un concerto. Infatti, concerto è il tag più utilizzato. No, aspettate, per rispondere alla tua domanda degli eventi ricorrenti, pensavo di utilizzare un tag speciale disabilitato di default, cioè che non te lo fa vedere di default. Questo potrebbe essere una. Ok, la domanda era se era possibile filtrare al contrario, cioè fare una negazione del filtro. No, adesso non è possibile, ma non vedo un caso d'uso. Ah sì, mi sta sul culo quel posto, non voglio vedere gli eventi di quel posto. Ah, non sì, dice sto a Torino, non voglio vedere gli eventi di Asti Pinerolo. Allora, in realtà secondo me, almeno delle motivazioni personali chiave rispetto all'esistenza di questo strumento è proprio la contaminazione dei vari posti. Quindi, come dire, sarebbe un meccanismo, secondo me, per evitare questa cosa qui. Tra l'altro, rispetto proprio all'esempio Asti e Avigliana, io mi sono reso conto che le realtà che utilizzano di più anche Mastodon sono le realtà che sono di provincia un po', quindi non proprio di Torino ma dintorni, perché sono quelle realtà che hanno anche un po' più bisogno di visibilità, di uscire dalla provincia, no? E secondo me è anche, cioè io vengo dalla provincia e, come dire, sono qui anche grazie a IRC fondamentalmente, che mi ha permesso di avere quel tipo di relazione lì. Altra domanda? Sì, quello che dice lui è, siccome poi questa roba qui verrà magari utilizzata da altre realtà, altre città con altre necessità, avere la possibilità di poter impostare, appunto, che ne so, questa storia dei filtri di default, degli eventuali eventi ricorrenti, magari metterla come di default oppure no, in base all'istanza. Sì, questo è esattamente il tipo di suggerimento che vi chiedo. C'era un'altra domanda, mi sembra? Sì, la domanda è: io esporto un URL di un calendario condivisibile in ICS anche? Sì, con no, con no, no, è dinamico, cioè tu puoi aggiungere i tag che vuoi, i filtri che vuoi, e viene generato live in base ai filtri. Quindi il calendario è sì, un URL, dove all'interno di questo URL c'è scritto, che ne so, uno che per me uno vuol dire concerto nel mio. Sì. Nell'URL dell'export c'è il filtro adatto, questo sia nell'URL dell'iframe che io vado a embeddare sul sito, sia nell'URL del feed RSS, sia nell'URL dell'ICS. Allora, il controllo dei duplicati è una cosa che adesso io non faccio, e tra l'altro sarebbe anche abbastanza difficile, cioè non difficile, però. Allora, attualmente tra l'altro è un problema perché ci sono degli eventi duplicati, nel senso che è talmente andata bene che persone degli stessi collettivi pubblicano gli eventi, tra l'altro magari, che ne so, con mezz'ora di differenza, con locandine diverse, con magari l'indirizzo, uno scrive barra A, uno no, beh, sono quelle robe che succedono. Infatti, proprio per questo, nella nuova versione, quando vuoi pubblicare un evento, ti vengono visualizzati gli eventi che sono già calendarizzati per quel giorno. Quindi, cioè, se non te ne accorgi, boh, tra l'altro, nel calendario che prima usavi per aggiungere un evento, prima era tutto bianco. Adesso proprio nel calendario che utilizzi per selezionare qual è il giorno, ci sono i pallini di qui sopra e i colori di qui sopra, quindi insomma in qualche maniera te ne accorgi. Poi non so se potrei mettere in pratica delle altre modalità, però mi sembra, cioè non è una cosa che succede così spesso. Allora anche qui era anche la nostra paura, questa era anche una nostra paura, nel senso che poi la gente alla fine non lo utilizzasse. E lì, cioè, dipende dalla realtà, dal contesto, dalle tempistiche, da tante cose. Noi, come vi dicevo, abbiamo una trasmissione in radio che secondo me ha aiutato, anche perché una, a parte il servizio Cisti Viaggiare Informati che tira un casino, una delle come dire, colonne portanti di Radio Blackout è l'agenda. L'agenda di Radio Blackout, che è un'agenda di carta, a parte carta canta, che viene utilizzata molto spesso, quasi tutte le trasmissioni di Radio Blackout leggono l'agenda e le realtà di movimento di Torino, se non vanno fisicamente perché hanno magari una trasmissione a Radio Blackout, cosa che succede spesso, scrivono fisicamente sull'agenda i loro eventi, magari mandano un messaggio in radio dicendo potete scrivermi sull'agenda che questo martedì facciamo un concerto punk. Okay. E, quindi in realtà, cioè, come vi dicevo, non è che noi l'abbiamo sponsorizzato veramente tanto, è stato molto più sulle relazioni personali, poi siccome appunto era anche una richiesta precedente da alcuni singoli fondamentalmente, da alcuni gruppi, e fondamentalmente secondo me ha funzionato anche perché era proprio una necessità di quel periodo. E poi non so dire se è una cosa che è sempre valida, ovviamente no, e non so neanche dire se è una cosa che sarà sempre valida a Torino, perché magari, che ne so, tra un anno tutti se lo saranno dimenticato. Secondo me no, perché appunto io credo che ci siano proprio le condizioni per farlo diventare una roba usata, quindi sì. Cioè, noi tra l'altro dobbiamo veramente ancora fare delle presentazioni di tutta sta roba qui a Torino. Cioè, noi a Torino non abbiamo ancora mai fatto delle presentazioni. Abbiamo fatto una presentazione di Cisti, di Mastodon nel particolare. Però, sì, è fatta te. Ah, due? Ah, due. Ah, sì, vabbè, una in valle. No, non vale, non è Torino. Una in Val di Susa. però appunto non abbiamo mai fondamentalmente parlato di questa roba qui in un intervento corposo, ecco, programmato, solo in radio appunto, che ogni tanto ci piace giocare tra l'agenda di Radio Blackout e Gancio e vedere quali sono gli eventi che sono scritti sull'uno e sull'altro, e se c'è sincronia. Ogni tanto quando ci abbiamo voglia sincronizziamo le due robe, ma è una cosa impossibile, anche perché molti degli eventi su Gancio sono appunto anche da realtà dei dintorni di Torino, cosa che invece succede molto raramente per l'agenda della radio, quindi non trovi l'evento di Asti, no? Dico Asti perché ad Asti c'è un collettivo che è fomentatissimo e usa tantissimo Gancio e Mastodon. Quindi ti ho risposto? Allora, quello che dice lui è, vabbè, solleva una problematica, sì. Quello che dice lui è, appunto, solleva una problematica che avevo già posto, che la contemporaneità multipla di eventi, anche addirittura della stessa area politica o magari sulla stessa tematica, e proponeva come feature aggiuntiva, caratteristica aggiuntiva, di dare la possibilità di aggiungere degli eventi bozza, cioè che magari non sai esattamente di cosa, qual è il gruppo che verrà a suonare, però sai che hai già deciso la data e te la vuoi mantenere per almeno farla vedere agli altri gruppi politici. No, senza l'account. Questo tra l'altro è un uso che viene fatto attualmente di Gancio, nel senso che ci sono degli eventi che non hanno la locandina, che tra l'altro la descrizione, proprio nella descrizione c'è scritto questo evento è in divenire, non abbiamo ancora, come dire, sciorinato i dettagli, però tenetevi libero sto giorno a quest'ora. Quindi non è, come dire, una roba, cioè un po' libera per l'utente, è un uso che tra l'altro viene fatto attualmente di gancio. Questo te lo posso dire. Lato Activity Pub per la bozza, no, non c'è nessun tipo di distinzione. Chiedeva se lato Activity Pub, cioè il protocollo di pubblicazione verso Mastodon, c'è una distinzione tra la bozza. No, quando uno mette una bozza, in realtà non è che c'è un qualcosa di specifico che indica che è una bozza, cioè più umanamente che tu leggi, oppure non c'è la locandina, però è un evento che tu vedi e c'è scritto evento in preparazione. Ah, ho capito. Questa è una problematica, effettivamente, ancora non è stata implementata, però c'è la possibilità di modificare eventi anche del tu, cioè il tut poi può essere modificato. Questa è una roba che devo ancora scrivere, però si può fare. Cioè, modificare il tut da cui è partito l'evento, adesso, quando io modifico appunto tipo la descrizione o l'orario dell'evento, ancora non funziona, però funzionerà, spero. Il server, certo, tu puoi modificare un tut in Activity Pub, in Mastodon puoi fare degli edit. No, no, cosa? Non ho capito, tu. Ah, sì, certo, è quello che farei io, cioè così si fa. Così si fa. Così si fa e tra l'altro non perdi neanche i commenti perché comunque hai l'ID vecchio, quindi è una roba abbastanza pulita e trasparente. Tu ti tieni anche l'ID. Io in realtà mi tengo una lista di ID perché tu aggiungi le risorse non solo di risposta al tut, ma anche alle risposte delle risposte. Quindi in realtà io ho una lista di ID di tut a cui, diciamo, fare attenzione. Però io volevo parlare del lato tecnico dopo perché. Però se volete, via. Un'altra domanda. La domanda è, siccome c'è la possibilità di aggiungere degli eventi in maniera anonima, c'è la possibilità che pub di chi pubblica in maniera anonima di fare delle modifiche agli eventi? È un'ottima domanda. È un problema effettivamente importante. Infatti noi l'abbiamo scritto, mi sembra che non in questa versione, ma in quella che sto per pubblicare, è proprio scritto esplicitamente, quando tu aggiungi un evento, cioè un più, ti dice puoi pubblicare un evento in maniera anonima, però non verrà immediatamente pubblicato, ma ha bisogno di una conferma e quindi c'è il pippone sulla delega, sul fatto che noi dobbiamo decidere per te se è un evento che può rientrare nei nostri paletti e B, non hai ovviamente la possibilità di modificare gli eventi. Però, e ripeto, adesso ne parliamo un po' della moderazione, però siccome appunto è un servizio radicato sul territorio, le persone ti chiamano al telefono. E quindi ti dicono, guarda che questo evento è stato spostato, no? Quindi anche questo è un po' la questione. Anonimo, ma non troppo. C'erano altre robe? No. Gli altri software che si occupano di questa cosa. Allora, all'inizio di questo pippone, io mai avrei pensato, scrivo io tutta sta cosa, che poi alla fine uno dice, sai, una sera un po' particolarmente alticcio, dice, ma sì, dai, ci mettiamo qua un pomeriggio, si fa, è una cazzata. In realtà, quando, cioè, di solito poi va a finire che poi non fai, quel progetto muore, oppure risulta molto più complesso di come te l'eri immaginato, e infatti è così, nel senso che probabilmente era una di queste sere in cui eravamo alticci e abbiamo detto, ma comunque figata, sta roba di carta canta, dai, cioè, comunque cioè, dobbiamo farlo, alla fine che ci vuole, dai, devi solo fare un form dove metti un orario, un luogo, una descrizione, boh, cioè, è finito, metti un calendario, non ci vuole, pomeriggio. Poi in realtà siamo qui a 4-5 mesi da quella sera, e in realtà poi avevamo guardato appunto tutta una serie di altri software. E in questi momenti, appunto, uno inizia a guardare un software e dice che se mi ci vuole un pomeriggio a installare, a provare un altro software, e poi magari un altro pomeriggio per modificare quella roba che non è proprio come la volevo io, dico vabbè, investo questi 2 pomeriggi, me lo faccio io, e quindi più o meno è andato così il ragionamento. Però in realtà gli altri software che avevamo trovato, che era uno era Get Together, che aveva delle problematiche secondo me abbastanza notevoli. Questo parlo di 5 mesi fa, adesso non so qual è lo stato di sviluppo, però questo è un periodo in generale che nel Fediverso noi lo volevamo federato questo oggetto, quindi non parliamo solo di un'agenda, ma ci tenevamo particolarmente a rendere questa roba qui comunicante col Fediverso, per tutta una serie di ragioni di cui boh, non me ne sto a parlare qua perché tanto c'è il talk dopo, però. Quindi abbiamo focalizzato, diciamo, la ricerca su strumenti che si occupassero sì di agende condivise, però con questa funzionalità qui, quindi con la possibilità di essere parte del Fediverso. E all'epoca c'era Get Together che aveva delle grosse criticità e quindi abbiamo deciso di escludere dopo svariate bestemmie. E tra l'altro adesso c'è un progetto di Framasoft, che appunto vuole fare fondamentalmente questa cosa, però è ancora molto nel mondo delle idee, e loro hanno iniziato una campagna di crowdfunding che gli è andata molto bene, però hanno una timeline che arriva con una beta al 2020. E, insomma, vogliono fare le cose seriamente, ingegneristicamente, con tutti i crismi. Framasoft, che sono i francesi, quelli bravi, cioè loro sono bravi, fanno questo di lavoro, spingono sul software libero, nella pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Peccato che in Italia non esista una roba simile, una roba comunque che secondo me ha senso, però si porta dietro anche tutta una serie di robe con cui io non avevo voglia di relazionarmi fondamentalmente. Quindi poi sì, nel trip di do it yourself, autogestione, facciamo tutto noi, c'è partita la bambola e poi insomma è stato divertente, cioè divertente. Io non so quanto tempo manca, però dobbiamo ancora parlare di un po' di cose se volete. Allora, il succo di questo talk era vabbè, presentare questa roba qui. Ah, no, mi sono dimenticato un altro tema, che è un po' un tema spinoso, ma un po' in generale, ne abbiamo anche parlato ieri, c'è stata una tavola rotonda sul Fediverso, che è un po' il tema della moderazione. Il tema della moderazione è un tema abbastanza spinoso perché tu puoi mettere tutti i paletti che vuoi, cioè puoi decidere di accettare appunto solo cioè poi in realtà la moderazione tu la fai per esclusione, quindi non decidi quali eventi vuoi, ma quali eventi non vuoi. Però è difficile trovare delle regole, ovviamente, perché la realtà è fatta di grigi, che come dire, vadano bene e riescano a categorizzare in che settore si pone un evento che ti viene proposto. In particolare, vabbè, su, come dire, gli eventi facili, se è roba commerciale dentro un locale, ovvero non c'è neanche da discutere, però non parlo solo degli eventi, ma anche in generale dei contenuti inseriti all'interno delle nostre piattaforme di movimento. Ci sono stati dei casi in cui, appunto, prima vi parlavo di questo evento di Potere al Popolo. Però ci sono stati dei casi che sono risultati più magari problematici. Parlo ad esempio, ieri ve ne parlavo, di un evento dei Sicobas, che è un sindacato, e effettivamente noi questa roba qui non ce l'abbiamo proprio scritta esplicitamente nella policy, però comunque non è nelle nostre corde, però comunque non è neanche la CGIL, e però comunque facevano una roba figa, insomma alla fine gliel'abbiamo fatto pubblicare perché era tipo l'assemblea Notav, piuttosto che, cioè tipo ci sono a Torino delle realtà che comunque si trovano anche in posti che non sono necessariamente non istituzionali o non, e comunque cioè lì è anche una questione di, cioè bisogna decidere volta per volta fondamentalmente, ma questo credo che in generale nell'ambito della moderazione dei contenuti funzioni così. Poi è un problema che questo secondo me è uno dei problemi anche chiavi della federazione, nel senso che appunto avendo la tua comunità tu capisci quali sono i, come contenuti che per la tua comunità non sono passabili rispetto a quelli che invece per la tua invece che gli altri, fondamentalmente. Questa è una cosa che nelle piattaforme grosse non puoi fare, cioè Facebook fondamentalmente i suoi paletti li deve decidere per tutti quanti, ok? Quindi e tra l'altro il rapporto tra moderatori e contenuti è una roba spaventosa, non è neanche immaginabile. Invece fortunatamente noi per ogni evento possiamo, come dire, spendere ore di chiacchiere tra tante persone. Tra l'altro io non ve l'ho detto, però in questa cosa qui io ci sto mettendo la faccia, però siamo tanti a occuparci di tutti sti polpettoni qua. Adesso l'Acrab in un buon periodo siamo tipo in, diciamo, che ne so, attivi almeno sempre 10, ma anche 15-20 ogni tanto, quindi c'è anche una forza dietro che permette anche di fare dei ragionamenti magari più a lungo respiro. Parliamo magari un attimo della questione tecnica, non vi interessa, perché fondamentalmente io sono qua a chiacchierare di sta roba qui, sperare che qualcuno adotti questo attrezzo qui, e B, che qualcuno mi aiuti a sviluppare sta roba, perché comunque non è una roba banale. Allora, sarò abbastanza breve, spero. Allora, come è scritto questo coso? Adesso vedrete molti nasi storcersi e gente alzarsi dalle sedie. Tutta questa cosa è scritta in Nuxt, si chiama, in Vue, che è praticamente è JavaScript. Quindi è un linguaggio abbastanza accessibile. Nuxt è fondamentalmente un framework che si chiama isomorfico, ovvero che il cui codice può girare sia lato client sia lato server, che in realtà vi sto parlando della nuova versione. La versione precedente era scritta in Vue ed era quindi solo client side. Infatti uno dei motivi per cui l'ho riscritta, a parte la questione dei link, che tipo se io mando un link di gancio su WhatsApp, WhatsApp fa una richiesta a gancio, una prefetch, e cerca un'immagine, la descrizione, eccetera. Questo ovviamente, se tutto il client, se tutto gancio è lato client, ovviamente non può funzionare, ok? Perché ovviamente WhatsApp quando fa il prefetch non esegue JavaScript. Uso Node.js, sì, è Node.js, Express, SQLize, un sacco di altre parole così. Sì, scusami, non è solo lato client, però diciamo che tutto quello che vedi viene renderizzato dal client. Ovviamente tutte le API e il database stanno sul back-end, è una domanda correttissima. È ancora così, però... appunto Nuxt è un framework che ho scoperto proprio per gancio, non è una cosa che utilizzavo prima, ma è proprio adatto per questo tipo di situazioni, quindi per fare rendering di path, di URL, lato server, e poi quando ci sono delle richieste dal client diventa quella che si chiama una single page application. E quindi semplicemente il client, che a quel punto è un client vero e proprio, fa le richieste all'API, tranne nel caso in cui, che è uno degli altri motivi per cui ho deciso di utilizzare questo framework, non ci sia JavaScript abilitato sul browser. Ad esempio, se io voglio utilizzare Tor, su Tor browser non c'è JS abilitato di default. Questo vuol dire che utilizzando Tor browser, in questa versione di gancio, non si può vedere niente, che è evidente che è un problema se comunque abbiamo, come dire, nel cuore la privacy degli utenti. Quindi uno appunto dei motivi per cui ho voluto riscrivere questa roba qui, che insomma funziona anche il server side rendering, e appunto che l'utente non ha bisogno di avere JavaScript abilitato per utilizzare la piattaforma. E poi Se volete, dopo ci mettiamo con chi è particolarmente interessato alla questione tecnica in un piccolo capannello e vi faccio vedere magari di più delle robe che sono magari noiose da descrivere al microfono. Non è una cosa assurda. View, per chi non l'avesse mai visto, è diciamo, un oggetto che funziona a componenti, quindi voi descrivete i componenti, quindi descrivete l'evento fondamentalmente di che cosa stiamo parlando, e poi questo componente lo potete inserire un po' dove vi pare. Okay, quindi abbastanza, non è una programmazione, come viene detta, dichiarativa, cioè voi non dovete spiegare, al programma che cosa dovete fare, ma dovete descrivere quello che dovete descrivere fondamentalmente la realtà, quindi è molto più vicino a come ragioniamo noi. Allora, la domanda è: la scelta di Vue all'inizio l'ho fatta rispetto ad Angular React, per quale motivazione? Queste sono scelte soggettive, secondo me a me mi fa cacare Angular perché è una roba per cui nei miei processi mentali non ci rientra proprio per niente, invece appunto proprio per questa ragione che ti dicevo prima, Vue descrive la realtà proprio per come ragiono io. Io ragiono più o meno così, nel senso che ragiono a pezzetti che poi metto, faccio i blocchi, faccio i puzzle, e quindi rientra più in come, cioè secondo me è molto più semplice appunto descrivere l'obiettivo che mi pongo in questa modalità qui. Non è dichiarativo, anche Angular è vero, non è dichiarativo, però Polymer, sì, Polymer, sì. Sì, più o meno, sì. Comunque io, a parte questo talk, View ve lo consiglio, sì, molto. Anche lui lo consiglia, molti lo consigliano, insomma è una roba fa. Poi tra l'altro la scelta di View rientra anche nel ragionamento che facevamo prima di quando uno è al ticcio e dice facciamo le robe in un pomeriggio. View ti permette di fare le cose molto velocemente e quindi sì. Cioè, non, a parte la curva di apprendimento, ma anche quando sai Angular, anche quando sai React e quando sai Vue comunque in pochissimo tempo ti permette di. Infatti, io la prima release veramente l'ho fatta in 2 settimane, ma anche cioè, lavorando, avendo dei mille altri cazzi, però in 2 settimane era già su. Sì, era su, appunto, non documentato, scritto veramente così, però era su. Questo con un'altra maniera non l'avrei mai potuto fare. Poi altri dettagli tecnici in realtà non me ne vengono molti, in realtà è molto facile, ci sono delle API di chiamata, quindi in realtà le due cose sono separate, il client e il server fondamentalmente, anche se lato server c'è appunto anche il rendering, però quello in questo, come dire, in questo nuovo concetto per me rientra anche nel client, nel senso che è vero, il rendering avviene lato server anche, però il server che fa il rendering è separato da quello che poi si occupa di gestire il database con gli eventi e le API. Quindi, nel caso in cui qualcuno voglia scrivere un altro client e appoggiarsi a quell'API, ovviamente c'è questa possibilità. Tra l'altro, io non ho anche raccontato, ma gli export non li faccio solo in RSS, in ICS, ma c'è anche un export JSON che uno si può prendere per fare la sua roba, il suo progetto che esporta. Cioè ci sono delle API con cui tu puoi comunicare con Gancho e chiedergli dimmi gli eventi in questa fascia oraria, dimmi gli eventi, quindi il backend è a parte, è molto semplice, SQLize che è un ORM che si basa su il database che vuoi, puoi usare SQLite, puoi usare Postgres, puoi usare MySQL, puoi cambiarlo nel frattempo, questo anche è molto comodo perché tu descrivi i tuoi modelli e poi lui decide rispetto al database che linguaggio utilizzare. Allora, mi chiede il framework che è anche quello che si occupa, si chiama, quello che si chiamano i linguaggi isomorfi, si chiama Nuxt, Nuxt, abbastanza, cioè è semplice, fondamentalmente è Vue, però anche lato server. Ovviamente ci sono dei distinguo perché io lato server non ho gli oggetti del client, non ho il document punto, non ho il window punto, però si può fare, è una magia, però si può fare. Nuxt.js, Nuxt.js, molto ben documentato e boh. Allora, come pensiamo di farlo usare a una comunità extratorinese, intendi tipo Firenze? vorrebbero adottarlo. Allora, questo un po' anche me lo dovete dire voi. No, negativo. Allora, no, siccome mi è già stata fatta questa domanda e assolutamente non voglio accollarmi questa roba qui, cioè la domanda era se come abbiamo pensato di far adottare ad altre comunità questo strumento qui e se c'era nelle nostre idee la possibilità di ospitare noi le istanze di altre comunità oppure farlo adottare ad autistici. No, in realtà non è stata pensata, perché in realtà proprio il Fediverso è pensato in questa ottica della federazione, quindi ognuno si deve smazzare il suo nodo e i suoi problemi, perché ogni nodo porta i suoi problemi, cioè comunque dietro questa roba qui ci sono degli aspetti legali, economici, sociali, relazionali, che sono soprattutto molto diversi per il tipo di comunità in cui ti trovi, perché magari a Torino tu hai bisogno per mantenere questa piattaforma di determinate risorse, che ne so, vabbè, adesso parlo di gancio, ma parlo anche di Mastodon, perché i bolognesi hanno 2200 utenti, 2002 utenti, non so, noi ancora che non l'abbiamo presentato, siamo ancora molto giovani e inesperti, abbiamo 170, 180, 200 utenti, quindi abbiamo bisogno di risorse molto diverse e mantenere le risorse per, come dire, collettivizzare questa roba qui non ha senso, perché appunto il suo scopo della federazione è decentralizzare e quindi lasciare in un luogo solo questa roba qui, secondo me è assolutamente da evitare, perché appunto si porta dietro i problemi legali, economici, amministrativi, tecnici di tante realtà che non ti chiamano al telefono. Ah, quindi, giusto. quindi c'è un Git che è ospitato su Lattuga. E si fa git pull clone, no, in realtà ci sarà una release e quindi fondamentalmente c'è un processo di installazione e di configurazione, è un server diciamo come WordPress, diciamo, dove si inserisce il dominio, si inserisce le credenziali dell'email di amministratore, perché ovviamente gli amministratori ricevono le notifiche degli eventi da confermare, degli utenti da confermare, insomma, si inseriscono un po' di dati che adesso però sono testuali. Cioè il problema è che il titolare del dominio si accolla a tutti i cazzi degli eventi e dei contenuti postati lì. Allora, questo è un problema particolare, nel senso che quando tu ospiti una piattaforma, questo è un problema anche di autistici fondamentalmente, cioè che tu ti accolli di ospitare dei contenuti che non produci tu e però di cui tra virgolette ti accolli la responsabilità, e lì ovviamente appunto la soluzione sarà di chi si smazzerà l'installazione di quel nodo locale, quindi noi ce la gestiamo in una maniera, esistono vari modi per registrare domini anonimi, per avere macchine anonime, tra virgolette, però insomma che alla fine della fiera non ti vengono a trovare a casa, e poi comunque anche se ti venissero a trovare a casa o insomma, cioè noi ci abbiamo scritto, è vero, il dominio non è intestato a nessuno di noi e abbiamo preso tutte le accortezze del caso, però io sono qui e se mi volete lasciare un foglio scritto con qualcosa, però cioè noi ci abbiamo scritto che ci troviamo tutti i mercoledì in un dato posto, insomma non è una roba segreta. Allora, ottima domanda. Allora lui mi chiede, nell'ottica del Fediverso, in quale modo le varie istanze di gancio interagiscono tra di loro? Allora, ancora non interagiscono tra di loro. Il ragionamento che io mi sono fatto rispetto a questa cosa qui è, allora, ha la possibilità di importare degli eventi da un'altra istanza. Ad esempio, perché ci sono degli eventi, quelli che sono un po' di più ampio respiro, tipo Hack Meeting, gli eventi nazionali, la CM Mona che c'è stasera a Roma, o che ne so, i cortei nazionali, fondamentalmente interessano a tutte le realtà locali, e quindi è utile che vengano pubblicati su ogni istanza. E secondo me è anche comodo avere la possibilità di condividere facilmente tra le istanze di gancio futuribili, ipotetiche, gli eventi, però siccome ancora non esistono delle istanze è un problema che ho lasciato, come dire, in coda alla to-do list. Però è un problema di poi. Però rispetto ad altre funzionalità papabili della questione del Fediverso, in realtà non è che ho fatto grandi ragionamenti, se voi ne avete fatti o se ci sono dei suggerimenti o non so che, cioè volentieri io ci ragiono. A posto?